là nel giardin. Lui è bianco e paglierino, là là, ha la cresta porporina, oh là là, batte l'ali, oh là là, apre il becco, oh là là, e poi fa chicchirichì. Ho girato il Mato Grosso, oh là là, l'Amazzonia ed il Parà, oh là là, ho incontrato, oh là là, il galletto, oh là là, nel deserto del Sahara. Thank you.